avete una operazione di tipo linguistico molto semplice, che è la, è osservare la, le sostituzioni paradigmatiche. E lì si trovano diversi motivi. Si trova un motivo di precedenza cronologica, un motivo di preferenza diritto giuridico, più o meno. E si trova un riferimento un po' strano, non so chi, ai sandali. Una cosa quel fatto. Separati così gli elementi, si può operare con rigore linguistico osservando quali sono i corrispondenti e le possibili sostituzioni paradigmatiche. E quello ci porta a individuare, a centrare quella frase dei sandali, non sono capace, eccetera, in un contesto di precedenza giuridica. No, io non faccio adesso tutta l'analisi, soltanto indico i passi. Pertanto già la, quella, la esegesi oggi corrente, che è quella già imposta dopo il Rinascimento o la, una tradizione, questa è minimista, non risponde. Lo schiavo che porta i sandali, prima che è falso culturalmente e dopo che bastasse, l'unico caso che si sente di portare, e bastasse in auristo, il quale non è portare, è portare via, è un auristo, non un presente. Quello già ci fa pensare che non, non funziona, ma va bene. Questo è il primo lavoro, che sarebbe un lavoro dello studio delle cinque volte nelle quali si trova quella frase, ma arrivando a Giovanni si trova un fatto nuovo, è che quella frase sui sandali appartiene a un sintagma maggiore di una serie di enunciati che fanno rapporto al Messia e a Gesù. Battista e Gesù. Cioè nel testo, nel contesto di Giovanni, quella frase che è sinottica acquista una personalità nuova musicale, diventa un motivo in tutta come un'overtura o chissà fra altri. E troviamo che il problema Battista Gesù è un problema scottante, grave della comunità, che deve essere risolto nella prima parte del Vangelo. È risolto dallo stesso Battista. E questa unità è fatta, creata, indicata linguisticamente dall'Evangelista rimandando. Ci sono modi di rimandare. Si prende una parola, si ripete, si aggiunge, si cambia. Così che oggettivamente, linguisticamente, la frase serve a capire un processo. Diremo come se fosse una voce e Giovanni tesse un contrappunto o una cosa a quattro voci. Ci mette una seconda, una prima, una quarta. E fra le quattro entra anche la frase. Arrivando a Giovanni troviamo, si chiarisce poco a poco quell'elemento della precedenza cronologica, la precedenza giuridica, e abbiamo elementi per chiarire il senso dei sandali, che cosa significa. Troviamo in Giovanni un gioco della tipo Hidà, dell'enigma, cosa che piaceva molto agli antichi, parlare in modo fra colleghi le cose non si dicono chiare, chi potete scappare capiate, si fa un riferimento, un'allusione, una frase appena cominciata, è Hidà, è il genere Hidà. Siccome Battista sta parlando con i messi dal tempio, gente intellettuale, esperti in la legge, Battista sta al gioco, lascia cadere una frase qui e là. E vediamo che in un momento si parla di questo che viene dopo, prima, la seconda frase aggiunge un elemento aner. Lui vede venire un aner, andrà, che non è antropon. Antropos è il Battista. Aner è lui. Cosa significa aner? I padri greci che parlavano il greco hanno la sensibilità, non confondono. Aner è maschio, non è uomo. È maschio, no, nomen sexus, dicono i padri. Cioè, già il Battista ha lasciato cadere lì una parolina. Qui potete scappare e capire. Quello che vede venire è Andra. E cosa è Andra? Eh? Non un uomo qualsiasi, no. Un barone, un spagnolo barone, un maschio, cioè con un riferimento chiaro, perché nel Vecchio Testamento, nello sfondo del Vecchio Testamento, Aner è Ish, Ish Eshet. Allora, l'allusione può essere matrimoniale, è indirizzata nella linea matrimoniale. Però ancora, prima. Lasciamo per un momento quella dei sandali. E già finalmente, quando sta lui solo in disparte, vengono i discepoli, li parlano una discussione su purificazioni della legge, eccetera, e finalmente Giovanni il Battista scopre le carte. E ormai, senza dissimulare, chiaramente dice qual è la situazione. Io non sono il Messia. Il Messia è lui. Ma tu sei venuto prima? Sì, questo è un fatto cronologico che non ha nessun valore. Perché? Perché giuridicamente lui è prima. Lui sta prima, giuridicamente. Anche se io arrivo prima, ma questo non significa ancora precedenza giuridica. Ma e allora perché sei arrivato prima? Perché mi hanno inviato prima. Mi hanno inviato a prepararlo. Pertanto sono arrivato prima. Pertanto eliminato questo elemento temporale. E lui, allora tu cosa sei? Io sono l'amico dello sposo. Cioè tutto quello che fa, the best man, dicono gli inglesi, quello che si incarica, fa tutti i lavori per lo sposo. E lui è lo sposo. Abbiamo questo testo dove chiaramente si parla del simbolo messianico sposo, che non è rabbinico, non è israelitico, ma è vetero-testamentario, o può essere, e si è parlato della Ner Andra. Allora, due volte il riferimento matrimoniale è lì sempre più chiaro. Cosa dobbiamo dire del problema dei sandali? Dobbiamo dire che è anche matrimoniale. Però tinto da diritto, non soltanto di un contesto matrimoniale, ma di diritto matrimoniale. Perché di diritto? Perché tutto il problema è chi ha più diritto, chi ha precedenza, chi può fare. Chi, notate che i canos e axios sono parole del diritto greco e dopo viene preso tradotto al romano, al latino. La hikanos non significa capacità, significa autorità, diritto, veramente, un linguaggio rigorosamente giuridico. Allora, abbiamo quella frase, appartiene a un contesto matrimoniale e di diritto. Va bene, allora domandiamo. Dove trovo io un contesto di diritto matrimoniale dove i sandali abbiano qualcosa da fare? Questa è la questione, no? Allora, l'ipotesi nostra, dico nostra, ipotesi nuova, contro Bullman e contro tutti questi, è che Giovanni, l'autore del Vangelo di Giovanni, che può essere perfettamente Giovanni l'Evangelista, non c'è nessuna difficoltà, no? Ci sono molte teorie, ma difficoltà nessuna. No? Allora, l'autore non aveva studiato il gnosticismo, però si conosceva il Vecchio Testamento. Questa ipotesi è scomparsa dalla scienza biblica stranamente. L'ipotesi, cioè per me è più che ipotesi, gli autori del Nuovo Testamento, la patria mentale degli autori del Nuovo Testamento è il Vecchio Testamento. Direttamente il Vecchio Testamento o targumizzato. Ma quella è la patria e non è il gnosticismo e non è il mandeismo come dicevano 40 anni fa, eccetera. Allora, si spreca una quantità di tempo immensa a trovare riferimenti gnostici, a cambiare il testo, a sopprimere, che no. Ma non si vede questo uomo che sa a memoria e che vive dal Vecchio Testamento, molti di questi soggetti non conoscono il Vecchio Testamento, come vedremo dopo un esempio. Dopo vedremo un esempio concreto, no? Con nomi. Bene. Allora, questo è rapidamente il lavoro che abbiamo fatto. Questa è l'idea. Allora, cosa significa quella frase? Io non sono autorizzato. Chi viene dopo di me ha più autorità, più diritto. Io non ho autorità per togliere i sandali. Cosa è questo diritto matrimoniale? È Levirato. Ricordate Levirato, Deuteronomio 25. Cioè, quando muore la donna senza figli, allora il fratello deve prenderla. Ma ricordate, il fratello è già sposato, ha i suoi figli, con il suo cognome. Ma prende la vedova, senza pagare, perché è già della famiglia, gli dà una casa e gli darà un figlio. E il primo figlio nato sarà cum, suscitato, e porta il nome del defunto. No? Ma allora lui perde il suo cognome? No, perché lui ha la sua moglie legittima. O la avrà. Può avere due mogli, no? Questo è importante per capire il diritto matrimoniale. Però quello che è morto senza figli, il suo cognome non scompare. Ben Yohanan, diciamo. Perché? Perché ci sarà nato un ragazzo, il primo, che si chiamerà Ben Yohanan. Ma non è suo figlio, non importa, no? Lui, la funzione del Yabama, del Levir, è suscitare Hekim, un figlio, e conservare il nome Hekim Shem, al Metz, o la Metz, del morto. Questo è il diritto del diritto. Ma diciamo che uno per motivo sentimentale, non era, di solito non era motivo sentimentale, per motivo economico di interesse non voleva avere la donna, quella seconda. E rinunciava. Allora dovrebbe andare alla piazza pubblica, che in Israele era la Shahar, la porta, e lì si celebrava un rito giuridico, rigorosamente giuridico, che il Zekanim, i testimoni notariali presenti, e allora veniva lei o lui, perché lì cambia la legislazione, e era sottomesso. Prima tentavano di convincerlo, devi prenderla, e lui insisteva, no. Beh, allora rifiuto assolutamente, va bene. Allora veniva sottomesso al rito della Haritza, che si chiamava così nel diritto, e si chiama ancora nel diritto ebreo, non si applica oggi, ma lo potete trovare nella enciclopedia giudaica, fino al Medioevo, fino al 600-700 si è praticato. Il rito della Haritza consiste a che lei, la donna o un altro, quello che segue, si china e scioglie la correggia e gli toglie il sandalo. E allora lui per sempre li chiameranno il sin sandalias, lo scalzato. Lo scalzato, lo chiamano così. Beh, e questo per ricordare. Questo è un rito e è cosa che dice Giovanni, va bene, io non posso sottomettere lui al rito della Haritza. No, io non voglio prendere la sposa. La sposa è sua. Sottometterlo al rito della Haritza significa eliminarlo e occupare il suo posto. Questo io non lo faccio. Perché? Perché non ho diritto. Ma sei arrivato prima, sì, va bene. Anche Bowles arrivò prima, ma c'era un altro che aveva più diritto. Ricordate la storia di Ruth. Il primo ad arrivare è Bowles. E non di meno, non può, perché l'altro ha più diritto. Quando l'altro rinuncia, allora nel testo di Ruth, capitolo 4, potete leggere la scena rigorosamente. Bene. Se questo è vero, allora bisogna studiare le versioni e la legislazione, i Targumim, Rabim, letteratura neotestamentaria, eccetera, su questo tema. Stranamente è un tema importantissimo nella legge israelitica. Perché? Perché è una questione molto importante. Involve tutta la problema familiare. La donna vedova cosa fa? Dove va? Non ha personalità giuridica, deve essere accolta da qualcuno. Dopo il nome è gravissimo, una cosa gravissima, uno che muore non lascia il cognome. Cioè nella vita, nella sociologia israelitica è importantissimo. E di fatto si trovano spiegazioni molto complesse, come deve essere il sandalo, come deve essere la correggia, e uno, due, se lui deve alzarsi, mettere il piede in alto, no, perché sarà una vergogna, se la moglie, se la donna guarda da giù, eccetera. Tutto spiegato, tutto. E se uno, se sono due, beh, allora, studiando quella legislazione, noi abbiamo, dico noi, non è mai stato, quel padre prue Dio, abbiamo trovato che si possono spiegare tutte le varianti paradigmatiche di questo testo, si provano documentalmente, non ipoteticamente. Ah, perché uno dice questo, l'altro dice quello, perché uno parla di in plurale, l'altro in singolare, tale. Beh, sono varianti. No. E tutto può essere documentato. L'unico è il Bastassai, che forse un po' meno. E questo è più difficile. Cioè che quell'ipotesi si conferma perché la variazione dei testi del supersinottico, delle cinque, quella variazione viene spiegata in tutti i particolari documentalmente. Vabbè. Questo è un po' il lavoro per indicare, sarebbe per cominciare, che praticamente il problema di Bautista, Gesù, è lui non è il Messia. che era un problema per la prima la comunità, non il Messia. E questo viene presentato in una polemica, in una dialettica con i farisei, che domandano, beh, voi domandate e vi parleremo il vostro linguaggio. Il linguaggio è il Vecchio Testamento allusivamente, poco a poco. Ecco, non posso farlo. Hanno capito o non hanno capito? Allora lascio cadere Aner. E finalmente alla fine si dice che è la sposa. Cioè, praticamente abbiamo trovato che per l'evangelista il problema del messianismo, cioè il ruolo di Gesù come Messia contrapposto al Bautista, viene spiegato nel simbolo matrimoniale. Per Giovanni l'Evangelista il Messia è lo sposo e lui sta a preparare la sposa lavandola, che è una cosa che si fa al mattino delle nozze, come racconta il libro di Ruth, il libro di Giudita in altro senso, è normale, e anche Paolo, la lettera agli Efesini, la vale. Sta preparando la sposa. La sposa è la comunità israelitica, secondo la tradizione antica. La sta preparando e lui pensa che quando arriverà e si mostrerà pienamente, la sposa lo abbraccerà molto felice. Ha una visione un po' idillica, non sa il dramma e la tragedia. Però nel Levirato c'è una tragedia. Nel Levirato è morto uno. Tutto il problema del Levirato è risolvere una situazione tragica. Una vedova, un uomo senza cognome. Per la solidarietà si cerca a risolvere. Questa dimensione tragica sarà avverata anche nel Messia. Il Bautista non lo vede chiaro. Giovanni Evangelista lo sa perfettamente. Dopo diremo qualcosa su questo punto. Quando abbiamo trovato questa chiave, cioè che un problema teologico importante, il ruolo di questi due personaggi storici che hanno avuto qua l'influsso così grande, no? Di Giovanni Bautista e Gesù, viene risolto dall'Evangelista nel simbolo matrimoniale, allora si fa pensare il simbolo matrimoniale per Giovanni Evangelista è importante, è una chiave teologica, una chiave. Va bene, cerchiamo, mettiamo la chiave, apriamo. E cominciamo a girare, non soltanto queste quattro parole, queste quattro frasi, ma cominciamo a girare. E cosa troviamo nel blocco 1.3? Dopo l'aggancio 1.15, no? Troviamo le nozze di Cana. Le nozze di Cana, tema matrimoniale. Ma lui non ha risposto, potete leggere la tradizione, nelle nozze di Cana non hanno niente da fare il marito e la moglie. Tutti quelli che hanno da fare è Maria e Gesù. Lì sta l'architriclinium, soltanto è come un notario, a dire cambiato. Tutta la problematica è l'acqua che serve a purificare, ma che non ha forza, non è generatrice, non è creativa. L'acqua deve essere trasformata in vino perché abbia un valore, il vino è elemento matrimoniale, chiaro. E soltanto chi può dare lo spirito può trasformare l'acqua in vino e può portare l'amore, la fecondità. Ma quando l'acqua è soltanto per purificare non serve a niente. Quello che diranno la discussione al capitolo 3. Pertanto lì veramente è una visione anticipata, come si fa nel cinema, come si fa nella letteratura, nella poesia. Si dà una visione di nozze che sono nozze, però che sta rappresentando un'altra cosa. Questo linguaggio simbolico, la gente che è abituata al buon cinema, a buona letteratura, buon romanzo, cosa normale. Questo sarebbe una buona educazione per l'esegesi, leggere letteratura e vedere buon cinema. Non soltanto chiudersi con testi e argomenti di esegeti. Allora, pertanto lì, in modo anticipato, perché ancora non è possibile, ci dà uno sfondo delle nozze del Messia. Maria non è la sposa, no, è la madre. Perché se leggete il cantico, vedete che la madre ha molto da fare. Sempre lo deve portare a casa della mia madre. Se fossi il mio fratello ti prenderei, ti bacerei in la strada, ti porterei finché lo porterò. Vedete il re Salomone il giorno nel quale la madre l'ha coronato, cioè è la madre che deve organizzare. Ruth, chi organizza tutto quello? Noemi, la madre, eccetera. Pertanto Maria sta lì in questo contesto. Cioè è delicatamente uno sfondo matrimoniale che ci fa capire attraverso una filigrana, c'è qualcosa. Dopo di questo c'è tutto il traspasso dei discepoli, vedremo questo punto. L'altro, la grande discussione con Nicodemo, che argomento ha? Matrimoniale, bisogna nascere di nuovo, ma come può entrare nel seno materno? E tutto era il problema matrimoniale della fecondità del seno materno come acqua, che è un classico della letteratura biblica e non biblica, il seno materno è l'acqua e l'oceano è il seno materno. Tutta la simbologia battesimale nostra, antica, è la pila battesimale e il seno materno. Non è per lavare, è per rigenerare. Potete leggere per esempio il grande prefazio della benedizione della pila fonte, no? Fonte battesimale. No? Per tutto il contesto c'è qualche riferimento di purificazione secondario, ma tutta la forza è rigeneratrice, che è il seno materno fecondato dal seme dello spirito. Tutta una simbologia matrimoniale. Allora, pertanto Nicodemo sta nello stesso punto. Ma forse, questo non è tanto chiaro, forse anche quello della casa. La purificazione del Tempio viene messa dall'Evangelista in questo blocco, fuori posto evidentemente. Cosa significa il Bet? Nella legge del Levirato il fratello vivo deve creare una casa al morto, Bet. No? Perché nella lingua ebraica la casa è il casato, cioè la famiglia. Lì il Messia dice, Gesù dice, questo tempio di Erode, questo non serve a niente, questo è diventato un mercato, un supermarket. Questo non è un tempio. Allora, qual è il tempio? Questo io, il tempio, sì e no. Sì e no. Perché questo deve essere distrutto prima. Deve essere distrutto il corpo fisico, fenomenico. E dopo che sarà distrutto, sarà ricostruito. Va bene, allora, cosa sarà ricostruito? Spesso si prende il corpo glorificato, sì e no. Il Bet non è soltanto il corpo glorificato. La casa del Messia è il cassato del Messia, è la famiglia. Cioè, distrutto il suo corpo, rinasce una famiglia, che è il vero Tempio. Nella casa del mio padre sono molte abitazioni, mansioni molte sue. E quella distruzione è anche il seme, e se distrutto e si moltiplica. Pertanto quel riferimento della casa, anche se non evidente, può entrare perfettamente in un contesto matrimoniale. Questi sono piccoli riferimenti per mostrare come con la chiave aperto questa casa, questo edificio, cominciamo a girare e ci troviamo una unità simbolica. Il problema, i rapporti matrimoniali, le nozze, la fecondità, comanda tutti questi tre capitoli e diventano una teologia del Messia. Ci fa capire un aspetto del mistero messianico in chiave matrimoniale, dove il simbolo non è secondario, non è sostituibile, no, perché è un simbolo che fa capire una dimensione unica e fra le più importanti. Ma allora domandiamo, dove sta il fratello morto? Tutta la questione. Qui entra, di fatto, lui arriva e muore senza figli, il Messia. Il Messia, perché l'Evangelista sa che c'è una tragedia, che la sposa, invece di aspettare con gioia, rifiuterà il Messia, la sposa Israele. E non soltanto lo rifiuta, ma lo fa morire. Ora, morto lui, cosa c'è? Bisogna trovare un fratello, ma lui non ha fratelli. Allora lui prima di morire crea un fratello. Crea un fratello. Moglie, questo è tuo figlio, tu, questa è la tua madre. Pertanto tu sei mio fratello. Quando lui risorge, il primo messaggio che lui invia è va a dire ai miei fratelli, e qui entrano bellissimi commentari esegetici, non di pietà spirituale, per favore, di esegesi profonda e seria dei padri, dei grandi Agostini e Gregorio. Varrebbe la pena leggere qualche frase. Ma di Agostino leggete il commentario al Salmo 45, che è tutto quanto una meraviglia, fra i più belli. E dico, oggi veramente, come commentario ai salmi esegetico, Agostino ancora non è superato. sono, abbiamo superato qui e là un aspetto, l'altro, cioè, ma esegesi profonda dei salmi. Oggi il miglior commentario che esiste nel mondo è la storia di Agostino, no? Ma è chiaro che bisogna aggiungere, ci sono altre cose che Agostino non ha saputo, ma bene, d'accordo. Vediamo se troviamo questa costituzione dei fratelli. Perché? Perché i fratelli dopo hanno come compito Hekim, no? Alzare la casa, suscitare figli, però diceva il libro del Deuteronomio, il Levirato, per portare il nome al Shem Hamet, col cognome del morto. Allora, come si fanno i figli, i fratelli del Messia, gli apostoli, i vescovi, come danno figli al Messia? Nel battesimo. Nel battesimo con che nome? Col nome di Paolo, col nome di Pietro, col nome di Cristo, nel te baptizzo. Questo è il commentario esegetico di, non so se lo troviamo, basterebbe, questo è Sant'Agostino contro Faustum, ma potete leggere il commentario, no? Qui dario in figura premonstrat, nisi qui a un usquisque evangelii predicator, ita devet in ecclesia laborare u defunto fratri, o che Cristo suscitet semene, qui pronobis mortus est. Et quod suscitatum fuerit, eius nomen accipiat. Denique hoc implens apostolus, non iam carnaliter in premissa significazione, sed spiritualiter in completa veritate, quos in Cristo Gesù, per Evangelium se commemora genuise, 1 Corinzi 4, 15, succenset eis, et eos increpans corrigit, volentes esse Pauli. Nunquid Paulus inquid probovis crucifixus est, aut in nomine Pauli baptizzati estis, tanquam dicerit, defuncto fratri vos genui, cristiani vocamini, non pauliani, ad vero qui electus ab ecclesia ministerium, eccetera. No? E in altro testo dice, non petriani, non pauliani, sed cristiani. Vedete che qui c'è una dimensione ecclesiologica e anche pastorale bellissima, sul tema della fecondità del ministero apostolico, episcopale, eccetera, e la fecondità del Messia si avvera attraverso la fecondità degli apostoli, autentica fecondità, però il nome non è nostro, sempre sarà il nome di Cristo. Questa è teologia seria, non sono pie considerazioni, no? Questo è fondato su una lettura approfondita dei simboli, non una lettura minimalista di concetti. Adesso passiamo a un altro, cioè prendo adesso già un close up, no? Prendiamo la camera, prendiamo un testo breve, di, se lei ci vuole leggere, Giovanni 3,29, no? Quando dice quello del Nymphios, del suono del sì. 3,29, sì, può leggere voce alta, ascoltiamo. O e con ten Nymphion, Nymphios est in. O de filos tu nun fiu, o este cos cae atuon autu, cara caere cae ten fonen tu nun fiu. Haute un e cara e eme peplerotai, e cae non de auxanein e me de elatustai. Bene, questo vogliamo adesso commentare questo testo, prendo una visione più ravvicinata per la seconda parte della lezione, che va sempre lo stesso. Stiamo facendo lettura simbolica e connessioni dei simboli. La prima cosa è questo dello sposo, è chiaro. Ma prendiamo quella frase, ascolta la voce, è la mia gioia, e la gioia è piena. No? Questa frase. Da dove viene questa frase? Beh, prendete un commentario del Vangelo secondo Rodolfo. Conoscete il Vangelo secondo Rodolfo? No? Non lo conoscete? No. Vangelo secondo Rodolfo, no? Alcuni capitoli sono fuori, al versetti si cambiano di qua di là, questo aggiunta, questo posteriore. No. Rudolf Budman, no? Io cerco di spiegare il Vangelo secondo Giovanni, no? Allora, lui lì nel. Prendiamo questo della voce, no? La voce. E cosa mi dicono? Mi dicono che sia l'uso, mi raccontano gli usi delle nozze, di quell'epoca del Vecchio Testamento, dopo aggiungono qualcosa di religione comparate, va bene. E in nota, dicendo che non ha importanza, che l'ha preso del Weiss e dei precedenti, ma li toglie importanza, ma dice che non è il tercium comparationis, che non ha niente da fare. Mi dà questi tre versetti, Isaia e Geremia 7,34, 16,9 e 25,10. Questi tre. Cosa dicono tutti questi tre versetti? Dicono, e non si sentirà più col sason becol simcha, col hatan becol kala. Non si sentirà più la voce allegre, la voce gioiosa, la voce dello sposo, la voce della sposa. Bene, tre passi, indicando che il tercium comparationis è tale pertanto che non ha importanza. Va bene, prima cosa. Però i testi in Geremia non sono tre, sono quattro. Allora, prima cosa, non cita il quarto. Perché? Perché se io faccio lo studio del Vecchio Testamento, devo vedere tutti i passi, soprattutto in Geremia. Secondo, in Geremia, questa frase ha un valore di leitmotiv e crea un contesto unificato, uno che sa leggere il libro di Geremia, e non il hamburger dei profeti, no? Ci siamo abituati al hamburger o polpette di profeti, no? Vengono macinati, ci danno versetti sparsi di profeti, no? Geremia è un libro. Giovanni Evangelista ha letto Geremia come libro. Se non vogliamo leggere Geremia come libro, non possiamo capire Giovanni Evangelista né Paolo. Paolo ha letto Isaia come libro. Non dico che sia scritto da un autore, non. Anche se non è scritto da un autore, è libro, un libro. Va bene. Dove si trovano queste frasi di Geremia, non si sentirà più? Si trova 7,34, il sermone del Tempio. Momento capitale, perché la distruzione del Tempio è la fine, è un eschaton. L'eschaton, non c'è più nozze, non c'è più gioia. Dopo viene 16,9, cos'è questo? Il celibato di Geremia. No? Non può prendere sposa, non può andare al banchetto funebre, neppure al banchetto di nozze. Perché? Perché non ci saranno. È un eschaton, l'esilio. E lì nell'eschaton c'è, non ci sarà più, col sason de col simcha, col hatan de col kala. Due volte. Ma perché l'ho detto io in ebraico? Perché i lettori lo ascoltavano in ebraico. Uno che sente quella frase, impara la memoria subito. Col sason becol simcha, col hatam becol kala. È un ritornello, no? Orecchiabile. È un leitmotiv. L'autore lo mette qui, lo mette qui. La seconda volta, risuona. Questo sarebbe, io raccomanderei anche per l'esegesi, ascoltare Wagner, il sistema di leitmotiv, una ripresa, no? Quando si sente una voce. O Richard Strauss, o se volete anche Johann Sebastian, no? Terza volta, 25,10, anche è un momento finale prima della grande visione escatologica della Coppa, anche è un contesto di un eschaton. Bene, è tutto qui? No, manca il più importante, che non ci ha dato Bullman. E prima, lui ha minimizzato perché non ha visto la funzione che ha ognuno e nel contesto unificato, cioè perché non ha studiato il Vecchio Testamento, che è lo sfondo della frase. Però ci manca uno che è molto importante, che capitolo 33, e 33 è la fine, la corona della restaurazione. L'ultima parola non sarà quella, no. Per Geremia non è quella l'ultima parola, l'ultima parola è speranza, attraverso la morte, l'esilio c'è speranza. Allora, nel capitolo 33, che ricordate sono i quattro capitoli, 30, 31, 32, 33, no? Dopo si passa alla parte narrativa, storica. Allora, lì dice questa frase, il versetto 11. Dice il Signore, in questo luogo di quel voi dite, esso è desolato, senza uomini, senza bestiame, nelle città di Giuda e nelle strade di Gerusalemme che sono desolate, eccetera, si udranno ancora grida di gioia e grida d'allegria, la voce dello sposo e quella della sposa. Vedete la versione, per favore, un piccolo commento. La voce dello sposo e quella della sposa. È quella, perché non la voce? La voce dello sposo, la voce della sposa. Poeticamente si deve ripetere la parola, no? Cioè, prosaizzare la poesia, no? colsa sonda e colsi qua. Cioè, ci sarà un ritorno, ci sarà nuova vita, ci sarà gioia delle nozze. Questo lo sa un israelita che sente la Bibbia, sente gli Aftarot e tutto questo, e sa a memoria il testo. Allora, dire che Giovanni Evangelista non conosceva questi testi o non pensava, non l'ha usato, veramente, è un presupposto assiomatico di un minimismo esegetico terribile oggi. Cioè, quel minimismo che non entrano nella mente di Giovanni Evangelista, fabbricano un altro Giovanni, no? E non entra. Giovanni Evangelista è un lettore accanito della Bibbia, è quello che legge, è come Agostino, è il suo mondo. Come capita a me dopo 20 anni insegnando teologia biblica, se mi viene fuori una frase di quella e mi dicono uno, ma quella si trova nella Bibbia, evidentemente trova la via, da 20 anni sto spiegando la Bibbia, evidentemente non è mia, è chiaro. Cioè, abbiamo creato una mentalità così falsa. La prima cosa che dobbiamo entrare è entrare nella mente dell'evangelista. Lui conosce tutte queste cose. Ora, cosa sta dicendo qui Giovanni Battista? Lui è lo sposo. E lo sposo è arrivato. È arrivata la restaurazione. Non è soltanto la restaurazione, è arrivato l'annuncio di Geremia. Eccolo qui presente. Per Geremia, per tutti questi, è un annuncio, è un futuro. Per me è un presente. Io ho avuto la gioia di ascoltare. Siccome tutta la mia missione è arrivare a questo momento e dire eccolo, questa è la pienezza della missione, la pienezza della gioia. Io sono presente alla gioia nuziale del Messia. Ninfios, e vedete che c'è ninfios, ninfie, sposo, sposa, voce e gioia. Tutte queste cose si trovano nel contesto greco, esattamente di quelle di Geremia. Dire che non c'è rapporto, veramente un po' strano. Ma dico, un modo di ragionare, un modo di fare esegesi, che nel futuro io penso che dobbiamo andare una strada nuova, che è questa strada diversa, e non stare a ripetere o a rifiutare. No, io avrei potuto anche risparmiare tutti questi riferimenti, ma avevano un valore didattico. Cioè, una lettura simbolica in questa linea ci farà penetrare il vero senso di Giovanni Evangelista. Questa è la mia opinione, la mia tesi. Ma adesso andiamo avanti in questo punto. Io prendo questa frase, va bene, perché adesso devo continuare il viaggio al Vecchio Testamento. Allora prendiamo come punto di polarizzazione o di scoperta questo tema, il voce dello sposo, voce della sposa. Allora, per ogni tema nuziale, Vecchio, Nuovo Testamento, patrologia, ecclesiologia antica, eccetera, un libro centrale, fondamentale è il Cantico. Nel Medioevo uno dei libri favoriti è il Cantico, il secolo XII. Si pubblicano 3 commentari importanti al Cantico. Ancora nel secolo XVI si dice che a scuola i libri che si devono insegnare dell'esodo tale, però mai deve mancare il Cantico. Allora, per tutte queste cose bisogna tenere il Cantico. Va bene, nel Cantico è costante il tema quello della voce, costantemente, è tutto un dialogo. Ma alle volte, espressamente, lasciami vedere la tua faccia, lasciami ascoltare la tua voce è gradevole, la tua faccia è bella, no? Così parlano. E costantemente il tema del nuziale della voce, non soltanto la voce, ma la voce è costante. Col dodi, no? La voce dello sposo, stavo dormendo quando sento la voce, no? È una costante. Potete dire, questo è umanamente, è ovvio, umanamente chiaro, è ovvio, è poetico, ma non dimenticare quello che umanamente è ovvio, è semplice, per andare al laboratorio a trovare le cose inumane, no? Disumane. No? Bene, allora prendiamo questo tema e, guidato da questo tema, mi metto a rileggere il primo testo, non dico cronologicamente scritto, ma del libro che si chiama Bibbia. Nel libro che si chiama Bibbia, il primo testo che io trovo di quel tipo è Genesi 2:20, non so. Ecco, Adam, il signor Adam e la signora Eva, Isha. Allora, Isha con il gioco di Isha, no? Si chiamerà Isha, che prende il nome. Di Adam, l'autore, mi dice che ha usato il linguaggio, la prima forma del linguaggio, che identificare bicchiere, bottiglia, eccetera. No, cioè identificare individui e spezie. È una funzione del linguaggio molto elementare, di cui parlano i greci anche, accettata quella, è il nominare, dare un nome. Ma dare un nome sempre è un atto differenziativo. Questo sì, questo diverso, questo uguale, questo contrario, questo diverso, cioè è un atto eminentemente umano, articolatorio della realtà e dell'esperienza. Quando Dio li porta a vedere lo zoo, il magnifico zoo, parte zoologico, e fa passare gli animali, e ogni animale fa la sua capriola, il suo sketch, eccetera, Adam lo guarda e dice, leone, molto bene, tigre, molto bene, eccetera. Qui l'autore non ci dice che non ha i nomi, non cita niente, non lascia parlare Adamo, dice che parlò, no? E che parlò usando il linguaggio nella sua funzione nominativa, no? E che lo fece molto bene, questo mi dice l'autore, ma non mi dice cosa disse. Cioè, ancora non ha parlato Adamo all'interno del libro. Ma beh, adesso c'è un'altra scena, per grande estasi, tarde ma, sì, Metodio lì ha una pagina bellissima sull'estasi d'amore di Metodio, è quello famoso del simposio delle 10 vergini, no? E l'estasi finalmente si sveglia e trova dinanzi l'amore. E adesso parla. E adesso la funzione del linguaggio è dare nome, sì, dopo, ma la prima cosa non è dare nome. La prima cosa è un'espressione di gioia. E il linguaggio nella funzione espressiva. La scoperta gioiosa e la scoperta nuziale. Come dicono i padri, il Dio è stato il ninfagogos che la porta. Perché di fatto dice che Dio la portò. No? Esattamente la parola che si usa del ninfagogos. Esattamente. No? Che userà dopo Paolo e Efesini. Dio la porta e lui scopre la gioia nuziale e le prime parole sono un'esclamazione. Non una affermazione, un'esclamazione. Questa volta essa è carne della mia carne, ossa della mia ossa. E adesso, diamo anche il nome, si chiamerà Isha perché viene da Isha. Vuol dire, le prime parole registrate nel libro chiamato Bibbia dall'autore sacro dell'umanità sono la voce dello sposo, la voce di gioia. Questo è la prima pagina della Genesi. La prima cosa che sentiamo dire al nostro, alla umanità nostra, che è la nostra, la stessa Adam, la prima cosa che sentiamo dire non è fare una formula, enunciare una cosa molto seria, intellettuale, ma aprirsi il cuore, esprimersi, la scoperta, la dualità, la bellezza, il dono nuziale, la gioia. Queste sono le prime parole dell'umanità. Evidentemente abbiamo fatto un salto attraverso il Cantico. Perché? Perché il Cantico è un libro essenzialmente genesiaco. Nel Cantico non c'è peccato. Serpente ci sono le piccole volpe, le volpi, no? Di un po' sono minacce, eccetera, ma è un canto, il Cantico è un libro trasfigurato. Canta l'aspetto più positivo, più ideale, la grande scoperta dell'amore, prima delle delusioni e di tutto questo. E di fatto, ricordate, i rabbini dicono il giorno più grande della storia è quando Dio ha dato agli ebrei il cantico. Così dico. E il dono del cantico lo considerano il grandissimo dono. Bene, questo ci ha servito per passare al contesto genesiaco, perché il cantico ha in sé una purezza e una esplicitazione, o come si deve dire, è un libro esplicito, ma pulito, tutti e due. Può essere commentato oscenamente, pornograficamente, come ha fatto adesso un commentatore in 800 pagine, no? Va bene, con disegni anche, no? Sì, un po', no? Nell'Uncle Biden. Si può fare, ma anche si può fare. Ma sta parlando di quello, ma io l'avevo capito. Ma queste cose non si dicono così. Tu pensi che io non avevo capito cosa è il Monte della Mirra? Ma io capisco. Ma lascia stare, no? Cioè, queste cose, è un libro esplicito. Cioè, esplicito, poetico. È pulito, è pulita, no? Questo è il cantico. Bene, allora andiamo avanti con la di questo momento del Genesi e cantico, perché stiamo in Geremia e Giovanni Battista e il Messia. Beh, abbiamo fatto un salto gigantesco alla prima pagina, facciamo all'ultima pagina della Bibbia. Cosa mi dice l'ultima pagina della Bibbia? Vengo, vieni, la voce dello sposo, la voce della sposa. Dica la sposa con lo spirito, ed è parola ispirata. La sposa ha un istinto, che è lo spirito, dentro. E quello spirito interno le fa scoprire che lui è il suo sposo, la fa desiderare. E allora, ispirata da quello spirito, pronuncia un'ultima parola semplice: vieni. La Bibbia si chiude con la voce dello sposo e la voce della sposa. In tutta quella trasfigurazione, ma si chiude e si apre, perché sta per venire. È arrivato da dove venire. Cioè un libro che quando si chiude rimane aperto per quella speranza, che è tutto quello anche del cantico. Però si potrebbe fare il passo all'eschaton, così come ho indicato un passo al proton, alla protologia con il cantico, per fare un passo all'eschaton, cioè, si potrebbero cercare alcuni testi che mi diano, già preparino la trasposizione escatologica dell'argomento. E di questo ci sono tanti testi, fra altri per esempio Isaia 51:3, il tempo si avvicina, già. Isaia 51:3. Cominciamo a leggere Isaia 51, no? Ascoltatemi, ricordiamo la doppia dimensione, che c'è una dimensione prossima del ritorno dell'esilio e una dimensione posteriore escatologica, la quale forse per l'autore non era del tutto esplicita, ma nella lettura antica diventa normale. Cioè i due piani del Deutero Isaia. Il piano del ritorno immediato e il piano di un ritorno che ancora verrà. Ascoltatemi voi che siete in cerca di giustizia, voi che cercate al Signore. Guardate alla roccia di cui siete stati tagliati, dirà che Abramo. Alla cava di cui siete stati estratti, Eva. Guardate ad Abramo vostro padre, a Sara che vi ha partorito. Il tema nuziale, un aspetto della fecondità. Abramo e Sara, i patriarchi. E chiaramente, poiché io chiamai, lui solo. Quando io lo chiamai, era uno. Lo benedissi e lo moltiplicai. Il tema coniugale della Genesi. Crescite e moltiplicamine. Ripetuto ad Abramo nella promessa. E qui preparato, pertanto, vedete come l'autore sale ai patriarchi, ma con una frase che fa ascoltare la Genesi. E questo ricordo è un motivo di speranza per gli israeliti in questo momento storico dell'esilio. Davvero il Signore ha pietà, pietà Niham di Sion, ha pietà di tutte le sue rovine. Qual è questo senso pietà? Niham è la prima parola del Deutero Isaia, Nahamu, Nahamu, Hami, consolamine. Come, qual è il parallelo? Parlate al cuore. Cosa è parlare al cuore? È linguaggio d'amore. E corteggiare, ossia i testi conosciuti, il libro di Giudice, eccetera, quel parlare al cuore essenzialmente sono tanti testi, è un fatto nuziale. Pertanto il Signore parla alla sposa, consolando. Anche Davide Betsabé, dopo la morte del primo bambino, dice consolo a Betsabé, cioè si unì ad essa. Questa è la consolazione, secondo tutto il contesto del Deutero Isaia e di altri testi, è di segno d'amore. Pertanto è Dio sposo, come tutto il Deutero Isaia, alla sposa. E ricordando Abramo e Sara. Però c'è un altro elemento. Rende il suo deserto come l'Eden, la sua steppa come il giardino del Signore. Questo è genesiaco, è un nuovo paradiso, è il ritorno al paradiso, l'Eden. La Harabà diventa Eden, Gan Eden, che è un tema che ricorre nel Deutero Isaia, la trasformazione anche del cammino che diventa un paradiso. E come risultato, giubilo e gioia saranno in essa, giubilo e gioia, l'altro tema che abbiamo trovato, ringraziamenti e inni di lode. Vedete tutti questi elementi di tipo nuziale anche legati con il trasferimento escatologico, genesiaco escatologico del Eden. E nel capitolo 65, 19, qui, beh, cominciamo nel 17, perché questo ci porta anche dopo all'Apocalisse, no? Verso 17, questo ricordate molto bene la frase. Ecco infatti io creo nuovi cieli e nuova terra. Questo viene ripreso espressamente dall'Apocalisse. Non si ricorderà più il passato, non verrà più in mente il dolore, la sofferenza, la vergogna, poiché si godrà e si gioirà sempre di quello che sto per creare. E qui nell'ebraico l'espressione molto forte, farò Gerusalemme gioia, farò che Gerusalemme diventi gioia. Non che Gerusalemme abbia gioia, ma che Gerusalemme sia gioia, no? L'espressione ebraica molto concisa. Farò di Gerusalemme una gioia, del suo popolo un gaudio. Di nuovo Sasson, Begilà, sinonimo di Simcha. Io esulterò di Gerusalemme. Gerusalemme sarà per me una gioia. La gioia che il marito ha con la sposa, secondo Isaia 62. In Isaia 62, come un ragazzo sposa una sposa, così ti sposa il Signore. La gioia che ha un ragazzo con la sposa, l'avrà il Signore con te. Io avrò la gioia di Gerusalemme, godrò del mio popolo. Non si udranno più in essa voci di pianto, grida d'angoscia, eccetera. Questo altro testo, vedete che è un testo escatologico, la creazione del nuovo cielo e nuova terra, e introduce l'elemento nuziale, la gioia, eccetera. Dopo nel 66 sarà l'elemento della fecondità. Adesso per finire, brevemente, un riferimento all'altra frase, no? Questo è ascoltare la voce di gioia, ma la frase che aggiunge alla fine è lui deve crescere, no? E la tu stai, o quale immediatamente? Dunque, e che non dei auxanei e sì. Mede e la tu stai. Bene, ecco. Allora, questa frase cosa significa? Auxanei e la tu stai. Auxanei, andiamo a Hatzanre el Paz. Cosa traduce auxanei nella Bibbia? Tante volte, frequentemente. È la versione tecnica fissa del Perù, Urrabù. Crescite, moltiplicameni e auxanei. È il termine tecnico della Bibbia greca. E la tusai non si usa a quel modo. Però in Geremia, in un testo di Geremia 30, non so se l'ho indicato in qualche posto, cioè un contesto di restaurazione, 30:19, Dio promette che non diminuiranno, e la tustai, ma cresceranno, auxanein o un'altra parola equivalente. Cioè, nella promessa del capitolo 30, questo il termine, crescere, auxanein e la tustai, o il sinonimo, significa ha un senso di fecondità del popolo. Questo è chiaro. Pertanto, auxanein è molto chiaro. E la tustai meno frequente, ma la combinazione abbastanza probabile, per me sicuro. Cosa vuol dire pertanto quella frase nel testo di Giovanni? Io sono lo sposo, io non sono sposo, io sono l'amico. Ho fatto tutti i preparativi, ho voluto preparare la sposa, la barba, eccetera, preparare tutto. Ma allora tu avrai una grande pena. No, io sono molto contento, la mia missione era quella, sono arrivato, anzi... Per secoli volevano ascoltare, vedere presente il Messia, e a me ha toccato ascoltare la sua voce, la voce gioiosa. Allora io sono contentissimo. E allora che? Beh, allora porto i sposi alla camera nuziale e vi auguro tanti figli. Auxanei, che lui sia fecondo, che abbia tanti figli. E allora a me, io ormai ho finito, io posso già, tocca a me, non tocca più. Ma quali sono i figli? Lo ha detto, chi possono diventare figli? Non la carne e il sangue, ma quelli che credono nel Signore. Allora cosa fa il Bautista? Passare i suoi discepoli a Gesù, perché credono in Gesù, diventano figli e passano. E lui comincia le latustea e comincia l'auxanei. Questo è tema anche coniugale e nuziale. Così abbiamo in questo versetto di Giovanni alla fine, che ho voluto prendere più da vicino c'è una sintesi che ci permette, perché dopo questo si comincerebbe a gettare le reti e usare un corso intero che io ho fatto adesso, è finito lunedì, lascerò se qualcuno vuol vedere, ho portato il programma con i diversi testi scelti, lo posso lasciare qui se interessa a qualcuno, no? Perché se si comincia a gettare le reti cominciano a venire testi e poi Saia dentro Isaia e uno l'altro e si trova una quantità, si vede che il tema nuziale nel Vecchio Testamento e nel Nuovo Testamento è molto ricco, molto profondo. Questo è un esempio, o due esempi collegati, di lettura, quello che intendo io di lettura dei simboli, e di leggere il Nuovo Testamento nel Nuovo Testamento e usa come linguaggio il linguaggio simbolico del Vecchio. E non che i padri abbiano cominciato a speculare, no, i padri hanno capito che il linguaggio simbolico e erano sintonizzati con il simbolismo. Il valore dei padri non sta nelle piccolezze che a volte sbagliano, eccetera, sta nell'intuizione reale, autentica, di un linguaggio che è simbolico. Non è aggiungere a Giovanni simbolismo, no, no, è Giovanni. L'autore simbolico è Giovanni, il poeta è Giovanni. Essi poeticamente leggono Giovanni, ma non è un'invenzione. Contro l'opinione di alcuni che dicono Giovanni è un prosaico, ha studiato il gnosticismo, eccetera, il tercio in comparazione, è concettuale, e se io faccio qualcosa di simbolo, è isegesis, è fantasia mia. No, non è fantasia mia. L'unico modo possibile di leggere un testo poetico è poeticamente. Chi chiude se stesso alla risonanza, alla percezione del simbolo, non capisce la poesia. E allora dovrà sostituire la poesia con un sistema concettuale e dire che il terzo comparazione è la gioia, che quello dello sposo non ha nessuna importanza, avrebbe potuto mettere qualsiasi altra comparazione. E si arriva a quella lettura minimista, scarna, e a una Bibbia che alla fine dice va bene. Invece questa ci porta alla grande ricchezza umana, perché sono i simboli la grande, la primaria espressione dell'esperienza umana, soprattutto dell'esperienza umana trascendente religiosa. E bisognerà pertanto una rieducazione a questa lettura. L'altro adesso sarebbe, per la discussione, parlare un po' teoricamente. Io in questo libretto, che non so se lo conoscete, era un commentario alla Dei Verbum in spagnolo, e del commentario hanno preso 6 articoli che sono stati tradotti e pubblicati da Paideia. Il dinamismo della tradizione. C'è un articolo sulla verità del Vecchio Testamento e la lettura simbolica. Cosa significa simbolo? Però in una chiave ancora limitata al commentario un po' conciliare. Perché lì non parlo niente dei rapporti simbolici, dell'universo simbolico. Piuttosto si parla dei singoli simboli. Ma forse potete avere, e potrebbe servire anche per una discussione, o forse per questo pomeriggio, per la questione della lettura tipologica, allegorica, eccetera, vista oggi modernamente in termini di simbolo. Questa sarebbe per me la formula, la soluzione. Adesso passiamo a un tempo di discussione. Il professor De Marchi, c'è una breve definizione di simbolo. Che cosa lei intende esattamente per simbolo? Breve. Prendiamo di questa definizione una descrizione. Cioè, con l'esempio di Guardini, no? Romano Guardini, il veronese, no? Qui pone come esempio la faccia umana. La faccia umana è un fatto fenomenico, è un fatto geometrico e coloristico. È un fatto puramente un sistema di linee, piani, colori. Questa è una realtà. Però nella faccia umana, in quanto faccia non maschera, è presente anima, spirito, espressione. Cioè, e appunto io percepisco la faccia come faccia perché non è puramente faccia. E poi se io percepisco puramente faccia è una maschera. E quel plus, quel altro che è presente nelle linee e nel colore, quello che simbolo. Allora, l'elemento colori, linee, sono simbolo. Non è un'allegoria. Io non faccio, quando vedo sorridere una persona, io non faccio un sillogismo. Quando uno sorride è che ha capito la mancanza di logicità e la meno. Atti, lui sorride, ergo. No. Il sorriso è presenza immediata nel medium inquo, medium inquo, non medium quo, medium quo, presenza dello spirito. Sorride lo spirito. Non so se questo aiuta o non aiuta. Cioè una realtà concreta che non perde la sua realtà, nella quale si fa presente, si manifesta un più, un trasformato. Cioè una cosa che trasforma la faccia, che è un fatto umano, è spirito. E secondo Guardini tutta la creazione, le creature, sono ontologicamente simili. Pertanto, cioè, portano a Dio non soltanto attraverso il sillogismo, ma la sua presenza. Così questo è il mio portato. Questo è io che intendo per simbolo. Dopo, fondato su questo aspetto, l'uomo fabbrica simboli letterari. Cioè, letterariamente. Per capire e comunicare un trascendente, cioè lo spirito, Dio, il gioco, la comunità, l'anima, la profezia, lui adopera un fatto fisico della sua esperienza nel quale è presente. Per esempio, Giovanni della Croce, un'esperienza di Dio immediata, sconvolgente, no? Fiamma di amor vivo. Fiamma di amor vivo. Fiamma di amor vivo. Cosa c'è lì? C'è un'esperienza trascendente indicibile. Allora, lui dall'esperienza umana cerca una realtà, fiamma, amore, la fiamma, amore, vita, e compone un sistema linguistico nel quale si fa presente, si comunica per lui e per gli altri. Pertanto non è un'allegoria, non è un fatto intellettuale, è come la fiamma a fare così e tale, questo non è una cosa. Un altro esempio, la rosa di Guillermo. La rosa di Guillermo, lui è tutta la famiglia, no? Allora, fatto di cammina, vede una rosa e nella rosa scopre l'unità e l'armonia di Dio. Non fa un silogismo, una riduzione, non sa cosa sia. Centrarsi sin tener sujeta a un solo político. Todo es cúpula, todo es cúpula. Riposa, central, sin querer, espontáneamente la rosa, a un sol, el feliz sujeta. Y tanto se da el presente, tanto el presente, que el fiel caminante siente, la immensidad del planeta. Cioè, nella rosa io ho scoperto l'unità, la totalità, l'armonia del mondo. Cioè, è una epifania. Ma non è così. Non so se sono riuscito a chiarire un po' come capisco. Ma non mi scusi, non per dare una definizione precisa. Perché forse non lo vedere. Ma ho letto che differenti questi metodi diversi per questa giornata che si differenziano dal metodo storico critico. Io una domanda prima, che cosa si vuol dire questo metodo storico critico, perché sensus literalis, secondo me anche questo sarebbe nel sensus literalis, la simbologia, no? Parte, e una differenza in questo contesto tra storico critico e sensus literalis. No, sì. A quel... Poi un'altra domanda. Ieri abbiamo sentito Spiritus est vivificat, anche abbiamo parlato dello spirito, che anche al di fuori di tutto quello che si può parlare con la lingua, c'è questa realtà vera, non solo viva in noi, lo spirito, che è molto importante, e poi in questo senso, se io conosco un simbolo, se io apprendo, quando faccio l'esperienza di un altro, che cosa ci deve essere in me come soggetto per farmi capace di apprendere questo? C'è da fare qualche cosa in questo senso, sì, lei, che cosa in noi stessi ci rende capaci di afferrare questo che è dietro, no? Che è dietro le parole, così. Allora, la prima è sulla questione del metodo storico-critico. Si potrebbe fare la prima distinzione e prendiamo il metodo storico-critico nella sua larghezza, tutto quanto insieme, allora quello che io ho fatto entra anche nel metodo storico-critico. Oppure, come di fatto viene praticato il metodo storico-critico negli ultimi 100 anni. Questa forse sarebbe la distinzione. Se io prendo la pratica, la prassi del metodo storico-critico negli ultimi 100 anni, penso che questa lettura simbolica è nuova, si scosta, è anticonformista, è anti-establishment. Però non è storico-critico questo? Questo studio dei simboli con i mezzi dell'analisi? Sì. Seconda, subdistinguo. Nel metodo storico-critico, che come viene praticato, c'è un'eredità dell'Ottocento, dove, dopo Hegel, la storia comanda. La storia è chiave di tutto. Ogni cosa si spiega per le cause storiche. Scienza explicatio causis, sì, metafisicis. Però nell'Ottocento si spiega per le cause storiche. Secondo, c'è l'assioma e, secondo, la storia è evolutiva lineare. Prima cosa, res explicatur ex causis historicis. Seconda, in un processo evolutivo lineare. Questi sono assiomi. E lì entra il pericolo, perché è un assioma che non è criticato. Ma di fatto il metodo storico critico vive di quegli assiomi non confessati e non criticati. Per questo, trovo un testo. Allora, per capire quel testo io devo trovare le cause storiche, cioè il gnostico dipende da quello, dipende dall'altro, è una citazione, religione comparata, il quale è magnifico, perché ha un valore, non nego, però è tutto lì. Oppure, in linea psicologica, il senso di una frase, di un testo, è adeguatamente identificato con la intentio autoris. Notate l'avverbio, adeguate. La intentio autoris spiega adeguatamente il senso di un testo. Cioè, la intentio autoris è un atto della volontà, pertanto riflesso, esplicito, perché voluntas, che vuol dire quel senso, e il senso del testo è quello che l'autore ha voluto e niente altro. Al 100%. È un po' la causa? Sì, posso spiegare. Vabbè. Lì molte cose sono importantissime, perché è evidente la intentio è molto importante. Devo conoscere la situazione, l'epoca, tutto quello che è nella mente, d'accordo. Pertanto, lì abbiamo cose che sono valide, d'accordo. Però basta, perché vedete, se io dico che la causa è il Vecchio Testamento, io sono il metodo storico-critico. Soltanto che invece di mettermi i gnostici, che non studiava Giovanni l'Evangelista, io metto il Vecchio Testamento che leggeva e pregava. Ma è causa, pertanto è il metodo storico. Quello che ho fatto io con il Vox Sponsi, Vox Sponsa, è il metodo storico-critico. Ma dove veramente io devo fare una critica molto forte nell'assioma e nella esclusività. Perché? Perché molte cose non si spiegano per le cause o non soltanto si spiegano per l'effetto. Quando un linguaggio è soprattutto appel, no? È soprattutto interpellante, allora si spiega per l'effetto più che per la causa. Cioè l'effetto posteriore mi aiuta a capire. Pertanto la storia dell'esegesi mi fa capire. Questo sta nella storia critica? Sì, sì, un po'. Poco, si fanno pochi studi di storia. No? Questo sarà il punto dell'effetto. Ma entra la questione quella lineare evolutiva. Questo è un assioma non provato. La storia non è evolutiva lineare, ma progredisce, ma salta, va indietro, si anticipa, eccetera. E lì questo assioma è fermo lì e non riusciamo a dirlo e criticarlo. Se questa idea si trova, la trovo nell'esilio, per questo non può essere di Isaia. perché non può essere. Cioè, quel negare la creatività dello spirito, l'anticipazione, il ritorno, la contemporaneità dello spirito attraverso mille anni. Questo è per me inaccettabile. Perché ci sono cose d'Agostino, io lo dico in termini di letteratura, io trovo più moderno Boccaccio che non D'Annunzio. Voi ditemi chi è più moderno, Boccaccio o D'Annunzio? Non so. Allora, si tratta di una pura evoluzione? No, lo spirito, sono cose d'Agostino che sono attualissime. Il libro di Giove, quando è stato scritto? Dopodomani. E c'è la sioma e cominciamo a fare quello che io chiamo il hamburger dei profeti, no? Questo verso appartiene alla mentalità tale, no? Si pensa che deve essere un processo e si aggiunge il modello di sedimentazione, che ogni epoca è omogenea, il quale è falso. In ogni epoca coesistono sia anticipazioni, retrospettive, eccetera, incoerenze, tutto. Allora, nel modo di praticare la critica storica bisognerebbe fare un'analisi critica e farla più autocritica storica. Sono queste cose. Ma un punto dove sì veramente forse ci scostiamo è il punto della contemporaneità. I simboli possono essere contemporanei attraverso i millenni. L'esperienza umana, una donna che ha un primo figlio, ha un'esperienza che è quella di mille anni fa. C'è un simbolo a una distanza di mille anni che è il simbolo, è contemporaneo. Cioè, queste cose dello spirito non sono in tal modo legate al momento storico, come Gulliver, no? Legato a tutti, che non si possano staccare e viaggiare e navigare. Se fosse così, tutto lo studio biblico sarebbe archeologia. E invece non è. Quello che è in qualche modo legato al suo tempo si slega e cammina. Pertanto, entra l'elemento della contemporaneità del rapporto tipologico. Qui possiamo introdurre, non so se sto parlando troppo, voi ditemi. Cioè, dire il punto, per esempio, è il Gunkel. Il Gunkel è stato il primo che ha lanciato un attacco al processo critico e storico, quando ha introdotto il concetto della tipologia, non la storia ma la tipologia. Sull'aspetto di tipologia lui è riuscito, non hanno voluto dare una cattedra, era un uomo pericoloso. Dopo lui ha aggiunto la storia del tipo, e vedete che la storia del tipo in Gunkel è molto debole. Sono assieme. Invece la descrizione tipologica è molto buona. La descrizione tipologica va oltre il tempo, c'è una forma presente che è lo stesso dopo 500 anni. Questo dei simboli introduce un elemento di contemporaneità all'interno della Bibbia e con noi, dove forse l'aspetto storico-critico comincia a inclinarsi, almeno a complementarsi. E il metodo strutturalista, lo vedremo questo pomeriggio, introduce un elemento un po' più atemporale. Questa sarebbe la prima domanda, c'era una seconda domanda, non so come era. Vabbè. Il subjectum, per esempio. Ah sì, sì, sì. Ma questo è già San Tommaso, gli antichi hanno detto che il primo passo della conoscenza è la connaturalitas. Questo è stato detto sempre, no? La connaturalitas è il primo passo. Oggi possiamo dire, si potrebbe formulare, dire che dall'esperienza normale, empirica, alla conoscenza scientifica c'è una continuità. La discontinuità è quello che crea la schizofrenia, lo scientifismo, no? La venerazione idolatrica della scienza. Cioè c'è una continuità e un ritorno. Allora, pertanto, se c'è la connaturalità, sempre il soggetto deve, se il testo è poetico, occorre un sensus poeticus, se stili, un sensus stilistico, un simbolico, un sensus simbolicus. Ma questo anche in una noematica classica. Allora, la parola al professor Rinaldi, poi al professor Goffi, poi al professor Trentini. Ecco, se ci sono altre richieste di parlare. Io temo che sembrerà che porti il discorso fuori di quello che ha detto lei, ma non crederei. Anni fa fra i glottologi italiani ci fu una discussione a quale ordine di scienza apparteneva la glottologia. Si parlava originariamente del problema era della revisione dei programmi, dei statuti dell'università, eccetera. E si concluse, io credo che tutti furono d'accordo, che scienza storica. Ora la scienza storica si tratta di parole. Se io parto dal principio che ho questo libro, di cui ho la rivelazione, la quale mi giunge scritta e con parole, allora io devo vedere che cosa sono le parole. Le parole sono, vivono in condizioni di vita, sono in un contesto, sì, letterario, vabbè, ma mettiamo pure culturale, mettiamo pure di un popolo, sono in condizioni di vita dove sono usate in un certo senso. Di modo che la parola, secondo me, è il mezzo più sicuro per venire una storia. Le parole hanno una storia. Ora, le parole di D'Annunzio vengono dopo quelle di Boccaccio, non c'è niente da fare. Quindi adesso se si vuole utilizzare il moderno e il non moderno, le parole loro come sono? Lei non ha parlato, non so se questa settimana si chiama, probabilmente in una delle relazioni da dove si parla della, oggi pomeriggio, no? Quel tema, per gli inglesi, i quali non danno molta importanza al fatto della ricostruzione storica, però anche loro stanno ritornando all'Oile, a uno a uno. I linguisti parlano, non gli esegeti, stanno ritornando. La glottologia, diacronica, sì, lo strutturalismo è diventato diacronico anche. Strutturale? Heilmann ad esempio. Strutturale. Strutturale, la linguistica strutturale. Dunque, la linguistica strutturale anch'essa apparve a un momento storico. E apparve sì nei paesi dell'Europa settentrionale, poi passò subito in America, allora era in tempo di guerra. Non si potevano avere libri pacifici. E allora, la storia sono rimasti tanti documenti, confronti, eccetera. E allora si misero così, fanno le fine di parole, di aggettivi, e ne venne fuori la... E sì, questa è l'unica, la venne fuori la linguistica strutturale. Sì, beh, insomma, qualche cosa è una parola che è costata niente, perché tutto ha lasciato traccia nella storia. Ma che sono sostanzialmente le parole sono esseri storici, viventi, che quindi si trasformano e che noi possiamo analizzare. Se io in esegesi, invece di guardare tante altre cose, prendo la parola e lì, qui c'è scritto così, e a questo momento vuol dire così, può darsi dopo che si debba completare, ma il primo lavoro è cambiato. Ecco perché Dio vede l'esigenza soltanto di investire in linguista delle lingue originali, e questo risolverà anche alle lingue sorelle di quelle originali e porta agli ambienti culturali. Quindi il commentario scientifico della Bibbia, io lo vedo, perché parlo le solite divisioni, piccole introduzioni, parole, poche righe, lo vedo così. A ogni versetto, ogni parola, ogni frase, dove è possibile, io metto il confronto, so. Allora prendiamo la Torah, Hammurabi, Sonne, De Giassie, Achese che vanno, secondo si prendono certi racconti, di cui oggi poi si conosce la storia. E allora il commento in questo modo viene da sé storicamente disposto, sarà eliminato ogni pericolo di soggettivismo, perché queste sono cose molto oggettive. E io credo che si ritroverà moltissime volte questo che lei ha detto, padre. Questo che hai detto. Cioè, se l'autore, mi pare che lo dicesse adesso, io sono andato un po' veramente per il discorso del mio, se l'autore vuole fare allegoria, io leggo allegoricamente, ed è una lettura storica, perché non volevo fare allegoria, ma se in un altro posto lui non voleva fare l'allegoria e io la faccio, ecco, allora, prego, scusate. Dico, la teoria, penso che siamo molto d'accordo. Io ho fatto la distinzione, la teoria sì, e cioè che evidentemente io non metto, non mai direi che D'Annunzio ha scritto 200, alla fine 200, 300, mai direi questo, no? Mai faccio lo sbaglio, no? Io non parlavo, le parole semplicemente, no? c'è un'esperienza della vita, c'è una formulazione, c'è un'espressione, c'è i sentimenti, c'è... le parole sono tutta l'espressione dello spirito. E in quel senso io parlo della contemporaneità, e che io posso simultaneamente leggere la Genesi in rapporto con l'Apocalisse. Io non dico che siano scritte allo stesso tempo, no, però che hanno un rapporto... Sì. Guardi che la parola, la lingua, è sempre un fatto sociale. D'accordo. È sempre un fatto sociale. Io non posso dire che un bel giorno io voglio, invece Luna chiamarla, no Luna, voglio chiamarla Segno. Allora dico che io mi siedo sulla Luna. Non so, sono fatti sociali che noi recepiamo e li troviamo entrando nella vita. No? Questo che posso dire è appunto ciò che io chiamavo storia. Sì, ma dico, questo è chiaro, su questo punto per me non c'è possibile discussione. No? Se io vado al Levirato, il Levirato è un'istituzione sociale, giuridica, storica. Ho cercato, come viene commentata, nei testi rabbinici, targumici, eccetera, come fatto storico, eccetera, in continuità. Per me questo non c'è dubbio. No? Io parlavo piuttosto di una prassi, perché tutta la questione è quella, no? Ma a che epoca appartiene quello? Perché il D'Annunzio io so quando ha scritto. Ma tale verso di Isaia, il poema del monte Isaia 2, di che epoca è? Questa è la questione. E allora, uno, la teoria, Isaia soltanto ha fatto profezie di distruzione. Pertanto, questo non è Isaia. Se fa la divisione, rigorosissima. Qual è il fondamento? Se la prima cosa, qual è l'epoca? Quando è stato detto? E secondo, aiuta. Ma vediamo i risultati oggi. I risultati sono di una anarchia veloce, sempre alla divisione. Dopo ci sono presupposti, assiomi che non sono provati. Cioè, predico questo, che nella teoria io sono d'accordo, io voglio fare. Dice, se l'autore ha fatto allegoria, allora io la faccio, è oggettivo. Se non l'ha fatto, è come so che l'ha fatto. Se trovo un professore che non ha il minimo senso per il simbolo, che mai legge lirica, che non ascolta musica, che è un uomo seccato del cervello, no? E lui mi dice che il mio non... Io faccio sempre questo esempio, un po' polemicamente. Ecco, se io spiego, mi è capitato più qualche volta, a giovani, spiegare una fuga. Ho preso diverse fughe, quella bellissima del flauto magico. Però no, ho spiegato cos'è una fuga. Per fantasie. Uno che non ha orecchio, non sente il Cavaliere della Rosa di Richard Strauss. Ora, chi deve giudicare su Richard Strauss è uno che ha orecchio e non uno che non ha orecchio. E mi trovo tanti esegeti che mi dicono che fantasia quello che io faccio, perché essi non hanno sensibilità. È semplicemente quello il problema. Per me quello è il problema. Sul fatto poetico, io sono accanito lettore, ho letto milioni di versi, in diverse lingue, in otto lingue. Sono accanito lettore di poesia. Penso che il fatto di avere tale amore alla poesia mi prepara a capire. Invece questo... pratica, non teoria, questa pratica del metodo storico critico, vedo che tanti sono semplicemente sordi, ciechi. Allora, il problema è quello, se l'autore ha voluto, è quello che voglio sapere. Vedo che ha capito perché morde anche. Ma non faccio male. Dunque, il dottor Goffi. Chiederei se mi può aiutare una difficoltà sull'osservazione che ho personalmente molto ammirato e goduto. Dico l'impressione non perché lei, ma per vedere se di aiutarmi a superare l'impressione avuta. Nel cogliere questi simbolismi del Nuovo Testamento si rifà giustamente ai simbolismi vissuti nell'Antico Testamento. Ora, la mia domanda è questa. Non dovrebbe, come fa senz'altro penso l'esegeta, usarli e non usarli, accoglierli e contestarli, perché nel Nuovo Testamento penso che questi simbolismi siano vissuti in modo nuovo. E, altrimenti, perché come giustamente ha detto, è nella storia il simbolismo, quindi si arricchisce, si pulverizza su certi aspetti, si modifica. Ecco. E allora poi, se permette, portando il discorso al di là dell'esegeta, come potrebbe, come fa lei, no? Con sensibilità odierna, se non dovrebbe sul simbolismo, quando è precisato in questo modo nel Nuovo Testamento, ripresentarlo a noi nel contemporaneo, modificati nella nella sensibilità e nella integrazione, così che sia il simbolismo di oggi che porti il messaggio di ieri integrato nell'aspetto storico. Allora, sono due domande. La prima domanda è piena e totalmente chiara, che il Nuovo Testamento adopera i simboli del Vecchio Testamento per creare, non per compiere semplicità. Per esempio, nel Vecchio Testamento lo sposo è Dio. E non abbiamo trovato nessun testo, nemmeno fortemente probabile, nel quale si chiami al Messia sposo. In tutto il rabbinismo, eccetera, c'è un testo, ma si vede che non ha sostanza. Allora, il fatto di applicare quel simbolismo vetero-testamentario al Messia, Gesù, questo è radicale, perché per il Vecchio Testamento è Dio, no? E adesso è il Messia. Cioè, l'autore del Nuovo Testamento adopera sovranamente, con libertà meravigliosa, i simboli del Vecchio. Perdoni, sì. Anche il simbolismo come simbolismo modifica o solamente l'applicazione? No, qui entra l'altra domanda, è che il simbolo, natura sua, è globale e dinamico. Il simbolo non è un enunziato di tipo A e B, cioè nel quale della veritas stat in proposizione, eccetera, no? È di un altro tipo. Nel simbolo c'è una presenza, una comunicazione di tipo globale, non articolata, e in sé aperta, dinamica, il quale può, natura sua, nella comunità, svilupparsi. Svilupparsi, cioè può darsi che l'autore sia rimasto a questo punto e che la comunità posteriore abbia sviluppato. In questo senso gli autori fanno, non è semplicemente che la cosa è finita e viene applicata, no, è che il simbolo si sviluppa in contatto, e per questo c'è la possibilità di portarlo al nostro momento. Ma sempre il punto di partenza per me, sempre, e questo è una questione che mai discuterei con la esegesi storico-critica, è che il testo ha l'ultima parola. Per questo bisogna studiare ebraico e greco, e non basta la versione, e tutto quello che si può fare nelle lingue vicine, di storia, è importantissimo. Forse non il 100%, ma è importantissimo. E questa è la natura del simbolo, come dice Ricoeur, don apanse. Il simbolo ha una qualità di non finito. E per questo io posso trovarmi in connessione contemporanea, attuale, con il simbolo, non puramente di percezione intellettuale un po' astratta. Sarebbe, se volete, una linea di aristotelica, per Aristotele, veritas est in proposizione, no? Bene. Veritas logica, però prima di quella veritas logica c'è la percezione immediata, no? La quale dopo viene divisa e composita. Allora, quella percezione immediata è una percezione dell'ontologica, una filosofia heideggeriana, anche tradizionale, ens est vero. C'è una possibilità dell'uomo di capire, prima di fare l'annunciazione. Lì c'è verità, è evidente, c'è manifestazione e percezione, c'è verità, è chiaro. Quella idea di che il concetto non è né vero né falso è un altro senso, un senso logico. Allora, tutta la linea letteraria, poematica, racconto, la buon romancio, eccetera, ci dà verità in questa formula. Presenta. Io prendo una fetta di vita umana, scusate, no? No? Di esperienza umana, personaggi, li faccio parlare, discutere, vivere, morire, soffrire, eccetera, e lì. E quel presentare poeticamente è rivelare umanità, far capire umanità, è lì. In questo punto è un problema di noematica, è lì che dobbiamo attaccare e studiare la poesia, il simbolo. Ma quando l'autore mi fa un'enunciazione formale, allora molto bene, allora siamo in linea aristotelica. Pertanto io sono d'accordo che su questo punto, che il Nuovo Testamento ha una libertà meravigliosa, sovrana, e appunto usa questi simboli perché trova che sono validi, ma sono validi ad esprimere una realtà nuova, la quale modifica i simboli, è chiaro. Modifica, diventa, gli dà una ricchezza, una profondità nuova. E i posteriori, come ha fatto la liturgia, come hanno fatto i padri, in gran parte quello che fanno è continuare il processo simbolico. Però questa continuazione, che può essere soggettiva, deve essere sempre controllata dal testo. Sempre. E allora, su un punto che penso che tutti gli esegeti, anche se abbiamo opinioni diverse, Su questo penso che alla fine tutti rispettiamo il testo. Non lo spirito. Il testo a livello questo di lavoro che stiamo facendo, il lavoro nostro, no? Chiaro, come credente, anche umanamente, il testo viene capito con intelligenza, questo è indiscutibile. Ma l'importanza enorme del testo, e forse un'esegesi, l'ermeneutica più recente, spostato un po' dall'autore al testo, è lì che c'è un cambiamento, dove l'autore non è il 100%. Il testo è un fatto sociale, è anche un ergon, è un'architettura, è una composizione, eccetera. E forse l'autore, se volete faccio un esempio di un autore biblico che non ha capito il suo simbolo. Sembra una cosa strana, invece. Ezechiele ha creato un simbolo meraviglioso di vita, morte e risurrezione. E lui non ha capito tutta la forza del simbolo. La visione delle ossa è una meraviglia letteraria. È un simbolo esplosivo, di una ricchezza immensa. Ha un potenziale di significato immenso. Ezechiele, quando ha fatto un'interpretazione del suo simbolo, dice: io parlo del ritorno del Sirio. Scusi, Ezechiele, va bene. Lei ha creato un simbolo meraviglioso, dopo mi fa un'interpretazione, va bene. Grazie tante, no? Grazie tante, ma c'è qualcosa di più del suo simbolo. Lì abbiamo un caso dove l'autore non ha capito il suo simbolo. Cioè, ha capito, ma non ha visto tutto quello che è. E allora, dopo l'esperienza storica posteriore della morte e resurrezione del Messia, del Signore, e la promessa nostra, io leggo il simbolo, non il commentario di Ezechiele, ma il simbolo di Ezechiele, lo capisco meglio che Ezechiele. Questo è un po' scandaloso, ma penso che in una noematica è rigoroso, è il simbolo così. Se no, nessuno mi può dire che la visione delle ossa esaurisce il suo senso nel commentario di Ezechiele. Questo a proposito di Mario. Posso Trentin? Facendo parte anche da questa ultima sua spiegazione, mi sembra di poter intravedere dietro la sua lettura semantica una teoria del linguaggio. Non solo come raffigurazione della realtà, ma come comportamento poetico, cioè dell'autore che crea significati sempre nuovi, ecco, a partire da un testo. Allora la mia domanda è questa. Io sono d'accordo su questo fatto, e cioè che la lettura simbolica è una condizione necessaria per leggere la Bibbia. Mi domando se è anche sufficiente, pensando appunto che la Bibbia è un libro religioso, e allora la domanda mia è: che differenza c'è tra un testo religioso, una poesia religiosa e altri tipi di poesia o altri tipi di linguaggio? Lì forse c'è l'aspetto formale piuttosto, no? Uno, anche un non credente, può trovare nel simbolo quella carica umana, perché sempre sarà la connaturalità. Se c'è un elemento umano in Giovanni della Croce, anche uno che non sia cattolico o cristiano, lui trova in quella poesia una presenza, una realtà umana che lo sconvolge. Cioè. Ma in quel caso lui non ha la fede, allora c'è una dimensione che a lui sfugge, che soltanto vagamente apprende. No? Allora, se questo punto è così, se sempre sarà così. La lettura simbolica è strumento, sempre, no? Soltanto che io, essendo credente, il mio punto di partenza è già di fede, fides quaeris intellectus. Ma io cerco uno strumento, un medio, e mi sembra che questo medio della lettura simbolica è il più adatto al linguaggio simbolico dei libri e alla realtà trascendente che soltanto nei simboli riesce a manifestarsi. Per questo, questa è la differenza di atteggiamento. Ma, evidentemente per noi il presupposto è che noi crediamo che è così, che il Messia è sposo, che la Chiesa è la sposa, eccetera. Ecco bene, allora io direi di chiudere così il dibattito relativo all'intervento. C'è ancora una domanda? Sì, prego, ecco poi ecco, ancora la domanda di Kramer, sì. Ecco, poi chiudiamo allora. Piacere. piaciuto molto e penso che primo che questo corrisponde con quello che io ho detto ieri, che anche nella natura oggi non si fa questa differenza tra poesia e libri religiosi. Per esempio nel ginnasio noi abbiamo letto i testi greci classici, ma mai la Sacra Scrittura. No, questa è forma semplice, non ha da fare niente con poesia. Ma oggi, per esempio in Germania e in Austria, nelle scuole non si fa differenza tra alta poesia e forme semplici. E così noi abbiamo la possibilità anche di leggere i libri sacri come una maniera di poesia. Ciò vuol dire che poi San Giovanni, o l'autore del Quarto Vangelo, ha preso un linguaggio di poesia di questa maniera. Soltanto una differenza per questa espressione è che questo linguaggio poetico e simbolico è sempre qualcosa che ha come fondamento una storia, quella che è accaduta nel nostro mondo, che Dio ha parlato, che Gesù si è fatto davvero uomo di noi, e così questo che io dico è come se il mio libro sui Vangeli di Pasqua dice Geschichten um Geschichte, un altro libro del Vecchio Testamento, sono storie, ma cercano sulla storia stessa. Questo io penso che si deve vedere in questa maniera. Se mi permettete di indicare due cose di tipo bibliografico, dove io ho espresso alcuna idea di ermeneutica sul modello ermeneutico, la questione quella della interpellazione eccetera, di questi rapporti, un articoletto su Biblica che si chiama La donna di Tecqua, il dialogo della donna di Tecqua con Davide come modello ermeneutico. La donna di Tecqua, che anno è? 75 o 74? Sono tre articoli insieme, uno dell'altro. 76. La donna di Tecqua, no? Il famoso 2 Samuele, no? Perché è letto come modello ermeneutico, di un'ermeneutica nuova, moderna. E anche a proposito di quello che diceva il professore Kremer, della questione che non facciamo la distinzione fra religione e poesia. Poesia religiosa non è la sintesi di due cose, no? Ma è poesia religiosa. Allora, su questo, la conferenza che ho avuto a Edimburgo, nel Vetus Testamentum, Hermeneutical Problems of a Literary Approach to the Bible, or to the Old Testament. Problemi ermeneutici di uno studio letterario. Lo studio letterario mi propone problemi ermeneutici. No? Lì ho cercato di parlare un po' più esplicitamente. No? Dico, forse per chiarire il pensiero, sempre in una conferenza, nel dialogo, non si riesce a dire tutto, rimangono molte cose. A chi ha interesse, mi faccio questo. Penso che si potrà riprendere quella. Sì.